Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ultimo giorno di ottobre, terzo giorno di Eclettica della nuova stagione, il 31 ottobre da passare assieme a Giulio Caperdoni, come tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, questa è Eclettica. Mi trovate, oltre che sulle frequenze di Rock FM, anche sui vostri lettori MP3, nel caso vi avvaliate del podcasting. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica o su www.radiorockfm.com. Nel caso poi vogliate essere parte della lista nera, vi ricordo che dovete scrivere a giulio@radiorockfm.com. Ottima giornata alle corse, maledettamente vicino a fare il colpaccio. Eppure, quando si vince, è noioso. Quei 30 minuti di attesa fra una corsa e l'altra, la vita ti sgocciola via nello spazio. Tutti sembrano grigi, calpestati, e io sto lì con loro. Ma dove altro potrei andare? In un museo d'arte? Dovrei starmene in casa tutto il giorno a fare lo scrittore? Potrei mettermi una sciarpa. Mi ricordo quel poeta, che nei suoi vagabondaggi passava sempre da queste parti. Camicia senza bottoni, vomito sui pantaloni, capelli negli occhi, stringhe slacciate. Però aveva quella lunga sciarpa sempre pulitissima. Era quello il segnale dell'essere un poeta. Le sue opere? Beh, lasciamo perdere. Questo era l'incipit de Il Capitano è fuori a pranzo, di Charles Bukowski. Never one to cry out, but it's gone on too long. is empty without your friendly tongue. But come back, honest James, your brother, he is here. He rolls into the darkness and he needs you to be near. But why don't you just tell him what's inside your heart? Let love take over. You know the devil just ain't that smart. And I always love him. And I always love him. And I'll always love him. And I'll always love him. And I'll always love him. Oh my God. They found me. I don't know how, but they found me. Work hard, Marty! Who? Who? Who do you think? The Libyans! Holy shit! Marina, anfetamina. Marina, gasolina. Uh-huh. Marina, caipirinha. Cha cha chicha. Beat me after school and I'll beat you like gorilla. Bate like piranha, vem brigar com a minha aranha. África, bambata, bambão, bambão, bata, bambão, bambata. C'è tanta musica nuova là fuori e qua in Eclettica cerchiamo di cogliere il meglio. Questo è storicamente il periodo dell'anno in cui si concentrano la maggior parte delle uscite, ma quantità non sempre vuol dire qualità, quindi con attenzione bisogna andare a fare una cernita. Per esempio quest'oggi abbiamo aperto con un estratto da quello che è il nuovo album di Thurston Moore, ovvero sia Sonic Youth, certo. Però in questo caso stiamo parlando di canzoni, stiamo parlando di un album di grandi canzoni come quella che avete sentito in apertura di trasmissione. L'album si intitola Trees Outside the Academy e la canzone che ci siamo sentiti invece aveva per titolo Honest James, dove Thurston Moore era aiutato dalla voce di Christina Carter. Poi i brasiliani Bonde d'Orole, il trio brasiliano composto da Marina, Pedro e Gorky, proveniente da Curitiba, che da qualche mese a questa parte sta facendo parlare di sé grazie anche a qualche spot pubblicitario dove la loro musica è stata utilizzata, tanto che vengono recuperati vecchi singoli e ristampati come se fossero nuovi. È appena successo con Marina Gasolina, che è il brano che si è appena chiuso. Per proseguire con una band che proviene da Atlanta e che è appena stata in tour con un'altra band proveniente dal North Carolina, sto parlando dei Manchester Orchestra, quindi non sono inglesi ma sono di Atlanta, che hanno condiviso cover incrociate con gli Annuals, la band della North Carolina. Noi ci ascoltiamo quindi i Manchester Orchestra a rifare Brother degli Annuals. Cass era la più giovane e la più bella di 5 sorelle. Cass era la più bella ragazza di tutta la città, mezza indiana. Aveva un corpo stranamente flessuoso, focoso era, e come di serpente, con due occhi che proprio ci dicevano. Cass era fuoco fluido in movimento. Era come uno spirito incastrato in una forma che però non riusciva a contenerlo. I capelli neri lunghi, i capelli di seta, si muovevano ondeggiando e vorticando come il corpo volteggiava. Lo spirito o alle stelle o giù, ai calcagni. Non c'era via di mezzo per Cass. Questo era l'incipit di La più bella donna della città, da Storie di ordinaria follia di Charles Bukowski. Riverside. Are you gonna order something, kid? Yeah. Give me a tab. Tab? I can't give you a tab unless you order something. Right, give me a Pepsi free. You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it. Vi sto per accompagnare alla fine della prima parte di Eclettica, vi ricordo che poi ci sarà come tutti i giorni una seconda parte di altrettanti 30 minuti di musica, di cinema e di libri. Questa è Eclettica su Rock FM in compagnia di Giulio Capperdoni, Eclettica in cui vi siete ascoltati qualche minuto fa il nuovo dei Levy, la band di James Levy da Brooklyn, Glorious è il titolo del pezzo che intitola a sua volta anche l'album. Levy, che avevano trovato spazio forse 2 anni fa, sì, mi sembra più o meno 2 anni fa, avevano trovato spazio, molto spazio all'interno delle playlist di Eclettica, ed escono anche con questa nuova prova per One Little Indian. Si è poi proseguito con Scout Niblet, appena ascoltata assieme a Will Oldham a darle una mano per Kiss. Scout Niblet che torna spesso in questo periodo, sia in questo inizio di stagione appena iniziata d'altronde, ma anche alla fine della stagione scorsa, un mese fa, con brani diversi, un periodo molto prolifico comunque per Scout Niblet. E si chiude con il ben ritornato Richard Swift. Ve lo ricordate? Di lui ho bene in mente la data, era la 2005, con una doppia uscita, non un doppio CD, ma due singole uscite che anche queste trovarono molto spazio all'interno delle playlist di Eclettica. Ora è in uscita con un nuovo album dal quale noi andiamo ad ascoltare il pezzo che ha per titolo The Song of National Freedom. Try